sose tai bella, kai fra tutti hai il primo onor. Non mi far morir d'amor, non mi far, non mi far morir d'amor. Oh, ben so se t'hai bella, c'hai fra tutti hai il primo onor. Non mi far morir d'amor, non mi far, non mi far. Because